Salve a tutti agli ascoltatori di Radio Big World, questa è la puntata numero 13, qui a tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e andiamo subito a cucinare. La ricetta di oggi è ravioli di ricotta e erba cipollina. Ingredienti per 4 persone. Farina tipo 0, 200 grammi. 2 uova più un albume. Un pizzico di sale. Per il ripieno, ricotta freschissima 300 grammi, erba cipollina 60 grammi, un tuorlo, una punta di noce moscata, sale e pepe quanto basta. Per il condimento, erba cipollina un mazzetto, un peperone, una piccola cipolla, 3 foglie di salvia, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Sale e pepe quanto basta. Preparazione. Setacciate la farina e disponete a fontana su una spianatoia. Rompete le uova al centro. Aggiungete il sale e lavorate. Fate riposare la pasta per 30 minuti avvolta in un canovaccio e preparate il ripieno. Lavorate in una ciotola la ricotta, il tuorlo d'uovo e la noce moscata e unite infine l'erba cipollina dopo averla tritata grossolanamente. Aggiungete sale e pepe e mescolate finché gli ingredienti saranno ben amalgamati. Stendete adesso la pasta in maniera molto sottile. Distribuite a mucchietti il ripieno. Pennellate i bordi della pasta con l'albume e richiudetela, quindi ritagliate i ravioli con l'apposita rotella. Per il condimento, lavate e tagliate il peperone a dadi, lavate e tritate l'erba cipollina e tagliate la cipolla finemente. In un tegame scaldate la salvia e la cipolla con l'olio extravergine di oliva. Aggiungete il peperone, l'erba cipollina, sale e pepe e cuocete per 5 minuti. I vini consigliati sono Castel del Monte servito a 15 gradi, Lambrusco servito a 17 gradi. Buon appetito! Questa era la puntata numero 13, qui a tavola con Fabiola. Io sono Fabiola, vi do appuntamento alla prossima a Radio Big World.